Con Valeria Bianchi, autrice e attrice di Unterwasser, per parlare di Maids, lo spettacolo in scena a Roma, lo Spin Time Labs, il 1° e 2 giugno 2019. Valeria, ben trovata. Ci Grazie. racconti il progetto Unterwasser? Sì, allora noi siamo tre donne e oltre a me ci sono anche Giulia De Canio e Aurora Puzzetti. Lavoriamo insieme dal 2012, ci siamo incontrate durante una produzione di Fattore K ed era una produzione di teatro di figura. In realtà noi abbiamo formazioni, passati lavorativi diciamo diversi, attinenti al teatro, ma di vari generi, però tutte e tre siamo approdate al teatro di figura, tanto è vero che proprio nel 2012 ci siamo incontrate in questo progetto, richiamate dal fatto che fosse proprio uno spettacolo di teatro di figura, cosa anche piuttosto rara, perché appunto è un tipo di teatro che noi amiamo molto, che all'interno comprende tantissimi mondi differenti e che fino adesso è stato molto relegato al teatro per bambini, quando in realtà ha potenzialità immense, evocative e può creare mondi meravigliosi. Quindi in realtà questo nostro amore comune ci ha unito e dal 2014 abbiamo cominciato a lavorare insieme per un progetto da presentare al Premio Scenario Infanzia. E questo progetto è stato Out, uno spettacolo che ha girato molto, siamo state poi in tutto il mondo, siamo state a Shanghai un mese, in giro per festival europei, ed è uno spettacolo sempre di teatro di figura, muto. Noi poi lo chiamiamo teatro visuale, in qualche modo perché la parte sonora e visiva è fondamentale, anche perché nella nostra ricerca fino adesso abbiamo cercato di limitare quasi del tutto l'uso della parola, per vari motivi, in parte perché amiamo il fatto di poterci rivolgere a livello universale a tutti, quindi poter viaggiare senza dover tradurre i testi, e dall'altra parte anche perché non, anche nella nostra lingua, insomma, anche se presentiamo lo spettacolo nel nostro paese, ci piace molto il fatto che non utilizzando la parola, il significato di quello che noi vogliamo esprimere possa essere il più vasto possibile. Anche nel nuovo progetto Maze non usiamo la parola e l'interpretazione di quello che si vede viene riempita molto dal pubblico. Quindi noi diamo dei segnali e abbiamo chiaramente una nostra linea, ma è molto interessante vedere poi come sono le interpretazioni personali, perché appunto il pubblico proietta in quello che vede molto del proprio vissuto, e questa è quella cosa che a noi piace molto, perché comunque lascia molte porte aperte. Avevate avuto nella costruzione di questo progetto dei riferimenti artistici? Sì, allora, in questo progetto in particolare noi amiamo molto il relazionarci all'arte contemporanea. Quello che noi facciamo, tra l'altro, quello che portiamo in scena è frutto di un lavoro artigianale che portiamo avanti. Quindi tutti gli oggetti che noi utilizziamo sono costruiti da noi e da una ricerca specifica per ogni progetto. In questo caso uno dei riferimenti importanti, quasi principale, è l'opera di Colbert e quindi soprattutto della sua ritrattistica in fil di ferro. E la ricerca che abbiamo fatto, che abbiamo portato avanti, è quella soprattutto della proiezione di strutture in fil di ferro tridimensionali. Proiezione con luce, quindi le loro ombre risultano molto grafiche sul telo di proiezione. Oltre a questo anche per esempio il disegno a linea continua di Steinberg, per esempio. La scelta delle musiche. Allora, la musica, come dicevo prima, è un elemento fondamentale nel nostro lavoro perché la drammaturgia dell'immagine è completata dalla musica. In questo caso abbiamo collaborato con un compositore che si chiama in arte Kosh e che ha lavorato insieme a noi dall'inizio, dalle prime fasi proprio di lavoro. Ed era un continuo gioco di, diciamo, rimpallo artistico, per cui noi lavoravamo sulle tecniche, sulla costruzione, sull'immagine e lui ci mandava, per esempio, delle proposte che a volte erano ispiratrici, altre volte erano invece a completare le nostre immagini. La storia di questo spettacolo cosa racconta? Questo spettacolo si chiama Maze, che vuol dire labirinto, e rappresenta il labirinto che è la vita, nel senso che abbiamo pensato appunto a una vita, partiamo dal nostro vissuto chiaramente, e abbiamo pensato che la vita non è altro che un continuo aprire porte o prendere strade senza sapere esattamente quello che verrà, no? Senza sapere dove queste strade o queste porte porteranno. Abbiamo scoperto poi, dopo aver iniziato a lavorare su questo progetto, già aver dato questo nome, una poesia meravigliosa della Jane Bosca, che parla proprio, si chiama proprio Labirinto e parla proprio di questo. Siamo partite dal voler affrontare alcune, voler ricercare, sperimentare alcune tecniche artistiche, come ho detto prima, e contemporaneamente dal voler esprimere alcuni sentimenti, alcune percezioni. In questo caso volevamo rendere, come fossero delle poesie visuali, tratteggiare dei momenti salienti della vita nostra e della vita che può essere la vita di ognuno di noi, come se fossero quei momenti in cui si hanno delle connessioni con il tutto, o momenti di estrema gioia, momenti di estremo dolore. Inizialmente quindi non c'era l'idea di una storia con una trama ben, mentre Out ha una trama molto, è una fiaba strutturata in modo molto classico, anche se è stata scritta da noi, però è molto lineare. Maze è più a immagini, come se fosse un libro di poesie visuali che si può sfogliare. Chiaramente nel mettere insieme queste perle della collana, quindi nel fare il montaggio, alla fine è venuta fuori comunque una linea drammaturgica. Però appunto, come dicevo prima, il fatto che sia senza parole dà allo spettatore la possibilità di interpretare in modi molto, molto diversi. Adesso, per esempio, alla fine di Inbox ci sono arrivate delle ulteriori interpretazioni anche molto lontane dalla nostra, che però in qualche modo, cioè molto lontane nel senso che noi non l'avremmo mai pensate, che però sono tutte plausibili, e quindi ci piace molto questo fatto di poter scoprire cosa gli altri vedono nel nostro spettacolo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, allora, abbiamo una pagina Facebook della compagnia Unterwasser, che si chiama proprio Unterwasser, con la W, che vuol dire sott'acqua in tedesco. Il nostro sito è www.unterwassertheater.wordpress.com. Non vorrei sbagliare per un momento, però spero che sia questo. Ci vediamo quindi il primo giugno alle 21 e il 2 giugno alle 18 allo Skin Time Lab. Perfetto, allora un saluto e un ringraziamento a Valeria Bianchi della compagnia Unterwasser, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto.